sono le ore 19:57 di lunedì 13 maggio 2024 e a costo di sembrare monotono devo tornare sul tema di quello che sta succedendo a Gaza. Soprattutto devo dire, siccome già molti fanno un grande lavoro di informazione su tanti canali, soprattutto su Telegram, per sfuggire al racconto dominante dei media industriali, chiamiamoli così. Quindi è chiaro che per chi voglia conoscere e anche saper usare tutti i discrimini e tutti i distinguo del caso con la propria intelligenza quello che sta succedendo, i mezzi ci sono, la rete ce li fornisce e non abbiamo più bisogno di balie cartacee o catodiche in grado di accomodarle naturalmente per loro e non per noi. Io mi concentro molto di più su quello che sta succedendo qui dove mi trovo, perché è difficile francamente raccontare quello che succede là senza esserci. Ecco, io credo che dovremmo soprattutto ascoltare chi c'è e chi riesce a parlare e far sentire la sua voce senza essere embedded. Mi limito a registrare quello che succede qui da noi, perché secondo me è un'altra chiave importantissima. Quello che succede, per esempio, l'abbiamo visto negli Stati Uniti, dove la protesta si allarga nelle università nonostante tutte le repressioni in barba a qualsiasi principio della stessa Costituzione americana, e ci sono i canali anche per seguire quello che succede negli Stati Uniti. Consiglio a tutti il podcast Rumble di Michael Moore, che già ci raccontò in passato altri snodi fondamentali della situazione negli Stati Uniti, che fanno parte più o meno tutti dello stesso filo d'Arianna, no? Che portano, mi sembra, abbastanza inesorabilmente a novembre, molto probabilmente alla fine degli Stati Uniti così come li abbiamo sempre conosciuti, anche con tutte le loro contraddizioni. E poi naturalmente c'è da raccontare quello che succede in Italia, e visto che in qualche modo mi sono sempre occupato di media, è interessante come chiave vedere quello che succede nei media a proposito del racconto necessario evidentemente per l'industria, per qualsiasi leva di potere anche in questo paese, quello che succede in quelle stanze dove si decide cosa raccontare, che, lo ripeto per l'ennesima volta, è molto più importante del decidere cosa è vero e cosa è falso. È molto più importante decidere cosa raccontare e cosa tenere fuori in tutto questo racconto. E devo dire poche cose, come la giornata di oggi all'Università La Sapienza c'è stato un convegno proprio in un'aula fortunosamente messa a disposizione dalle istituzioni universitarie. C'è stato un convegno, la prima di due giornate sulla Nakba. La Nakba, lo sapete, è diciamo la deportazione di 750.000 palestinesi nel 48 per fare spazio al nuovo Stato di Israele, da cui insomma partono un bel po' di cose. Naturalmente tante cose partono anche prima, la dichiarazione Balfour, possiamo andare indietro all'infinito, però ecco, anche io non so quanti italiani sappiano che 750.000 palestinesi furono a un certo punto deportati privati di tutto e stipati in dei campi profughi nel 48, semplicemente per dare una casa al nuovo Stato di Israele. Comunque, le giornate della Nakba, la prima è stata oggi, quasi 8 ore di dibattito con tantissimi interventi molto molto interessanti. Domani ce ne sarà un'altra, il 14, sarà però all'Università L'Orientale di Napoli. Si può seguire tutto via Zoom. Io ho cercato anche di assicurarmi che vi sia la registrazione, perché mi sembra che su questo non ci sia mai sufficiente attenzione, sembra che tutto debba sempre succedere in diretta, quando in realtà bisogna anche darsi il tempo di ascoltare contenuti così profondi, utilizzando magari i tempi morti. È quello che sto cercando di fare, ma soprattutto io spero che lo facciano anche gli altri, invece di stare compressi lì nei tempi del telegiornale o anche del podcast, che ormai ha assunto ritmi radiofonici e quindi in larga misura ha perso questa occasione di andare in profondità. A volte bisogna ascoltarsi anche interi convegni. Per chi non riesce ad andarci, oggi sono riuscito a seguire le ultime due ore, durante le quali si è parlato di informazione, si è parlato di quello che succede nelle redazioni, nelle pressioni che i giornalisti subiscono per poter conservare il loro posto di lavoro e anche degli atti individuali, singoli, di giornalisti coraggiosi come Raffaele Oriani, che qualche settimana fa, anzi qualche mese fa, a dicembre se non sbaglio, decise di lasciare il gruppo Gedi perché si stava rendendo conto che lavorava per un'organizzazione che aveva quasi per missione quella di disinformare su quello che stava succedendo. E questa è solo l'ultima di tutta una serie di defezioni del gruppo Gedi, però è la prima, io credo, è la più importante, che si colloca proprio al centro del problema di cosa succede nel mondo dei media nazionali, sui massacri, sulle violenze, sul genocidio, perché questa è la parola che io non ho alcun problema a usare, e che si sta compiendo nella striscia di Gaza. E poi sono intervenuti altri giornalisti che già conoscevo, devo dire anche personalmente, come nel caso di Alberto Negri, con cui ho avuto la fortuna di collaborare tantissimi anni fa al Sole 24 Ore. Alberto Negri, che proprio per il fatto di essere uno che ha sempre raccontato il Medio Oriente esattamente per quello che era, è stato via via emarginato su testate sempre più, diciamo, fuori dal centro del discorso dominante. Adesso scrive per Il Manifesto, ma nel frattempo si è guadagnato anche grazie alla rete tutto un pubblico suo, come tanti giornalisti in gamba riescono a fare, fino a diventare anche uno scrittore premiato al premio Capalbio qualche anno fa, se non sbaglio 2-3 anni fa. Ma insomma, ancora una delle voci che alla fine sei costretto a invitare in qualsiasi dibattito, perché è uno dei pochi che veramente capisce quello che succede lì, anche perché conosce alcune delle lingue che si parlano da quelle parti, il che non è banale. E poi ci sono state altre testimonianze, anche dal mondo universitario, che hanno raccontato le pressioni che nella ricerca, per esempio, tanti ricercatori subiscono su tutti questi temi, da tutta una serie di gruppi di potere che cercano tuttora di impedire che si svolgano convegni come quelli di questi giorni, quasi telefonate minatorie. Ce n'è stata una proprio oggi per evitare, per esempio, nella speranza di scongiurare che si svolgesse la seconda giornata, quella di domani, all'Orientale di Napoli, dove invece per fortuna si continuerà a parlare e portare testimonianze con nomi, cognomi, proprio quei nomi, quei cognomi, quelle immagini che sono negate al racconto del massacro palestinese che si sta svolgendo in queste ore. E quindi quello che vi invito a fare è magari seguirlo, per chi è a Napoli di andare sicuramente, per chi può, si può anche seguire via Zoom, metterò il link tra poco anche sul canale Telegram, e poi spero che a un certo punto si possa anche vedere, ascoltare quello che è stato detto oggi, on demand, diciamo, perché certe cose è bene che rimangano, anche per ricordarci se eravamo pochi, quanti eravamo a provare a dire o anche solo ad ascoltare certe cose, chi era disposto ad ascoltare certe cose.